con l'attore Giovanni Arezzo per parlare dello spettacolo Chet, che sarà in scena a Roma, allo spazio 18B, dal 17 al 20 gennaio. Giovanni, ben trovato. Grazie, ciao, come va? Sto bene. Ci presenti questo lavoro? Sì, con molto piacere. Chet, punto esclamativo, è uno spettacolo che racconta la vita di Chet Baker, il più grande trombettista bianco della storia del jazz, e ne racconta la vita attraverso la sua musica e i suoi viaggi e tutto quello che ne ha fatto parte, insomma. Ed è un monologo che ha scritto, anzi è un atto unico per attore solo, che ha scritto Laura Dornanbene ed è interpretato da me. Ci racconti un po' tutta la genesi dello spettacolo? Sì, con piacere. Io sono un grande fan, insomma, la musica è una delle cose che mi piace di più in assoluto nel mondo, insieme al cibo e a un altro paio di cose. E Chet Baker è stato da sempre un mio idolo, uno dei musicisti che mi ha affascinato sempre tanto, più di altri. Una sera chiacchieravo con Laura, oltre ad essere una drammaturga, una regista, un'attrice, una mia grande amica, e chiacchieravo sul fatto che sarebbe stato bello raccontare la storia di Chet Baker con un testo teatrale. E lei ha capito questo mio assist. E 3 anni dopo mi ha mandato la prima stesura del testo e da lì, insomma, la cosa è diventata reale. Cosa hai apprezzato di questa scrittura? In tutto, dall'inizio alla fine, perché avevamo parlato un po' di quelli che dovevano essere gli snodi drammaturgici principali e quindi, insomma, avevamo già le idee chiare su quello che doveva essere un po' l'arco dello spettacolo. La scrittura di Laura la conoscevo già perché avevo già fatto due spettacoli scritti da lei, quindi, insomma, ero sicuro che tutto sarebbe stato di mio gradimento. Poi lei ha superato ogni tipo di aspettativa perché mi ha dato in mano veramente un gioiello, quindi, insomma, sono molto contento. Siamo molto contenti. E rispetto alla figura di Chet Baker, su cosa viene posto l'accento? Tutti gli avvenimenti della sua vita, che poi erano figli della sua anima, di tutti i pivi che c'erano dentro di lui, a seconda di quello di quale lui sceglieva seguire, poi la sua vita prendeva delle pieghe incredibili. Il tutto con la musica come costante della sua esistenza e anche gli eccessi, la droga, le donne, insomma, una vita che ogni giorno gli capitava qualcosa di incredibile, quindi veramente meritava di essere raccontata. Ecco, è proprio questo a tuo avviso che rende teatrale la sua vita, la sua figura? Ma la sua figura è teatrale, cioè è un personaggio con la P maiuscola, perché è attraversato da tutte le emozioni del mondo estremizzate dal suo genio, quindi è teatrale in per sé una vita del genere. Noi abbiamo cercato di adattarla al teatro, visto che comunque è questo il mezzo di comunicazione che abbiamo scelto per raccontare questa storia. La musica come entra nello spettacolo? In che rapporto ci stai? La musica è molto presente nello spettacolo perché noi affrontiamo la vita di Chet Baker in maniera cronologica e anche i brani che la gente ascolterà hanno più o meno tutti lo stesso percorso. È fondamentale perché spesso fa da beat su cui io recito, cioè io dico tante cose a tempo sulla musica di Chet Baker, quindi è presentissima, non è eseguita dal vivo perché dal vivo c'è la mia voce che la riempie, però è presentissima. Bene. Dopo queste date romane, che succederà dello spettacolo? Dopo queste date romane, boh, non lo so, noi siamo. Questo spettacolo è nato da noi, quindi noi lo porteremo avanti con tutte le nostre forze e cercheremo di andare su più piazze possibili. Adesso ci stiamo concentrando su queste 4 date romane a cui teniamo molto, insomma, speriamo che da queste possano nascerne delle altre. Per saperne di più, ci lasci tutti i riferimenti web? Sì, per saperne di più potete seguire sul web lo spazio 18B, che è il posto che ospiterà il nostro chat, e lì ci sono tutte le informazioni del caso, ovvero i giorni, gli orari, ci sono delle mie foto in cui sono straordinario, visto che in radio non potete goderne, potete andare a cercarmi. Chiaramente sto scherzando, cioè, insomma. Bene, allora ricordiamo lo spettacolo Chet, a Roma, allo spazio Sì. 18B, dal 17 al 20 gennaio. Un saluto e un ringraziamento all'attore Giovanni Arezzo. Un abbraccio, un in Grazie a bocca voi. al lupo e risentirci presto. A prestissimo, vi aspetto a teatro.